www.radiotrepod.rai.it. Sono sempre e soltanto 12. K e Drago avvistano i primi polli zombie. K! K! Ma sei sordo? K! Sono qui! Oh, che spavento! Drago, ma no, sono qui! Ma credevo che fossi quello là! Chi stai chiamando? Cosa guardi? Quello là, lo vedi quello là? Ma quello là chi? È uguale Drago a te. Ma cosa? Eh sì. Ma è un pollo! Vabbè, e tu invece non sei un pollo, è vero, però... So certo che non sono un pollo, Drago. Guardami. Però, dai. Però se lo guardi bene ti assomiglia un po', non riesco a capire. Assomiglia a tutti gli altri polli. Polli, però. Lo sappiamo, Drago, siamo qui da anni. Adesso tu te ne accorgi solo adesso che qui si assomigliano tutti. Cioè che ci assomigliamo tutti. Dai. Aspetta, ma guarda. Cosa? Sotto le piume non ha la carne, ha solo le ossa. Ma sarà anoressico, Drago. Vabbè, sì. Certo, anoressico. Magari ha saltato qualche turno di paroxetina e gli è passato l'appetito. Lo sai che la paroxetina la danno proprio per invogliare i polli a mangiare, poi a ingrassare, poi per essere macellati belli grassi, Bello, capito? Sì. Ma no, pollastri! Quel pollo non è anoressico! Ah, no? Quello è un pollo zombie! Pollo zombie! Quello è uno di quei rompiballe che prima resuscitano, come resuscitano? Poi sono qui, occupano spazio e non fanno niente! Quelli sono polli zombie! Polli zombie! I polli zombie? Ma allora esistono sul serio? E cosa fanno? Vogliono vendicarsi? Ma no. Sono così zombie che non hanno nemmeno la voglia di vendicarsi. Ma no, vengono qui e continuano a fare la vita di prima, no? Cioè aspettare la morte. Solo che il problema è che loro non muoiono più poi, non è che dopo 38 giorni li ammazzano come tutti gli altri, eh no? Se fosse così sarebbe troppo bello. Invece loro stanno qui, in eterno. Ma sono magri, non mangiano, non consumano. Alla fine che fastidio vi danno? Ma prova tu a conviverci un po', no? E poi vedi. Ma perché, scusa, perché? Allora, adesso te lo dico io il perché. Allora, questi polli sono morti, no? Eppure continuano a fare tutte le cose che facevano prima. Si presentano gli sportelli per la paroxetina e poi per le visite mediche, per un permessino. Insomma, tutte le faccende burocratiche che un pollo normale deve fare nei suoi 38 giorni di vita, no? E questi uffici poi sono già sempre pieni. Adesso con i zombie è diventato impossibile. Cioè, loro prendono lì, vanno lì, prendono il numero, si mettono lì ad aspettare, che ne so, di farsi visitare anche se sono morti. Peggio! Non prendono neanche il numero questi qui. Questi si filano in coda e non dicono niente, no? Stanno lì imparati. Vabbè. Poi ci sono gli impiegati dei sportelli che li guardano e dicono: ma allora, non è il tuo turno questo qui, hai capito o no? E loro stanno lì. Siediti lì, prendi il numero e aspetta il tuo turno. E questi lì che si muovono, Stanno lì. Stanno lì imparati. Ecco. Poi magari l'impiegato chiama un pollo vivo, che ne so, per esempio, Joao, e cominciano a alzarsi 30-40 polli, no? Ma come? Zombie. Sì. E si avvicinano allo sportello. Ma come, 30-40, tutti lì? E l'impiegato dice: tu sei Joao? No. E allora cosa fai qui? Vai via, no? No, ma che inferno! E poi uno dietro l'altro. Ma scusate, aspetta, gli zombie per tradizione letteraria e cinematografica hanno sempre fatto paura a tutti. Questi qui, scusa, sono degli zombie che fanno paura a chi fa la coda dal medico, al supermercato. Insomma, di che cosa stiamo parlando? Quelli sono polli zombie! Polli zombie! We walk with the zombies. We walk with the zombies. We walk with the zombies. We walk with the zombies. We walk with the zombies. We walk with the zombies last night. Che lo dai rotto? La fabbrica di polli. E poi ormai è normale incontrare un pollo e chiedersi: ma questo qui sarà un pollo vivo o un pollo zombie? Beh, ci credo, sì. Qui fra un po' ci sarà un pollo zombie per ogni pollo vivo. E basta poco per arrivare ad avere più polli zombie di polli vivi, eh? A quel punto tanto vale andarsene, no? Chiudiamo Baracca e Burattini e lasciamo la fabbrica dei zombie, no? O no? Però pollo, scusa un attimo. Cosa c'è? Perché mi guardi così? Ti guardo così perché mi è venuto un sospetto. Questa è la faccia del sospetto. Come? Che sospetto? Scusa, quanti anni ha il pollo in sbattimento? Ne ha 44, giusto? Sì, è giusto. Questo è quello che dice lui, vabbè. No, come? Perché? Si toglie gli anni come le donne. Magari fosse così. In realtà, magari il pollo in sbattimento non ha 44 anni. E soprattutto il pollo in sbattimento è un pollo zombie. Il pollo in sbattimento è un pollo zombie. Sì, un pollo zombie. E infatti è un pollo zombie perché, guarda, è vecchio come il cucco. Non l'hanno ancora macellato, qualcosa sarà, no? Insomma. Allora, la questione è molto semplice. È semplice. È che tutta la documentazione che mi riguarda non arriva mai in superficie. Ecco perché. Che cosa stai dicendo? Non si capisce niente. Allora, in superficie. Ti sto spiegando perché non mi hanno ancora ammazzato, no? Vabbè. Allora, la documentazione su cui c'è scritta la mia condanna a morte è incompleta. Manca la data di esecuzione. Allora, il trucco è semplice. Io pago da anni un pollo funzionario dell'ufficio anagrafe che si occupa delle esecuzioni e lui ogni mattina sposta la mia pratica sul fondo del cassetto, capito? E lo paghi tu. E certo, risultato? Nessuno mi ha mai torto una piuma. Ci credo. E la stessa cosa la faccio per Tarek. Anche per Tarek. Ma basta, la pasta asciutta. Ma scusa, pollo in sbattimento. E Joao, non puoi fare la stessa cosa per Joao? Vedi puntata numero 2. Ma cosa, non so cosa. Pollo, dai. Come fai a essere così cinico? Povero Joao. Come no? E che cosa sei allora? Adesso lo saprei come dire, mi manca un po' la definizione. Me ne freghista magari. Va bene, me ne freghista. Sì, va bene, però ti rigiro la domanda. Pollo, come fai a essere così me ne freghista? È perché mi viene bene. Ah, tutto lì. E perché? Manca qualcosa. Mancano 36 giorni all'esecuzione di Joao. Ciao, sono Joao. Joao è un pulcino di appena 2 giorni e finora ha solo imparato a dire: ciao, sono Joao. E speck bri, patate d'olive. E non voglio morire spennato. Non è commovente. No, veramente, cioè, commuovetevi un casino perché sennò mi ammazzo ed è una menata pazzesca. Joao è un pulcino dolce che vive come vivono i pulcini d'oggi. Mamma, o mi compri le scarpe o t'ammazzo. Perché vogliamo vederlo ucciso e smembrato in tanti pezzi? Appunto, datevi una mossa con questa campagna, perché qui il tempo stringe. Potete, possiamo, possono fare qualcosa. Save Joao minus 36. Cosa succederà adesso? Quale sarà la priorità di Kappa e Drago? Sconfiggere i polli zombie o salvare il pulcino Joao? Lo scoprirete solo sintonizzandovi domani alla stessa ora su Radio 3 per il prossimo amletico allestimento de... La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude mai. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. La fabbrica di polli, un programma di Kappa.